giorno l'Olimpo sparì. E con l'Olimpo sparirono tutti gli dèi. Zeus, Era, Hermes, Atena, Afrodite, tutti. E al posto dell'Olimpo comparve una gran croce cristiana. Io pensavo che sarei scomparso anch'io, dimenticato, ma forse non fu facile farlo, perché ormai ero entrato saldamente come personaggio nella grande letteratura. Comunque sia, gli scrittori protocristiani si divisero in due gruppi. Il primo cercò con tutti i mezzi di cancellarmi, l'altro invece, con arte più sottile, cercò di cooptarmi. E ora arriviamo a vostro padre Dante. Dico vostro perché io, per fortuna, sono tebano. Dante mi mette all'inferno tra i fraudolenti assieme a mia figlia Manto, perché secondo lui avrei frodato i miei compatrioti con false predizioni. E quindi, per la legge del contrappasso, mi costringe a camminare con la testa girata, col mento tra le scapole, per vedere sempre all'indietro, dato che avevo voluto vedere davanti, cioè il futuro. Ma non è questa la colpa più grave, secondo Dante, perché sa benissimo che tutto questo avvenne contro la mia volontà. Io ne sono stato una vittima di quella metamorfosi. Il peccato più grave per Dante è quello che io ho stravolto le leggi di Dio e di natura. Con la mia metamorfosi da uomo a donna e viceversa. Butta anche vicino a me, nel girone, fraudolenti, anche mia figlia Manto. Vi ricordate che vi dissi che la bambina veniva su un po' strana? Bene, poco dopo ne capì il perché. Aveva ricevuto in dono da me la mia virtù profetica. Infatti, come profetessa, mi aiutò molto. Poi si diede a lunghe peregrinazioni e venne anche in Italia. In Italia fondò una città che da lei prese il nome Mantova.